Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, i nostri GR24 vi hanno già ricordato i passaggi principali dell'intervento molto atteso di Mario Draghi, perché all'inizio mese, quando il board, quando il comitato della Banca Centrale Europea si riunisce, è l'occasione sempre per la conferenza stampa. Tradizione vuole che invece nella riunione di fine mese non vi siano conferenze stampa, e la Banca Centrale Europea ha nuovamente confermato, ma questo era strascontato, il tasso di interesse e il costo del denaro dell'area euro ai minimi storici, e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento resta a zero. Tasso sulle operazioni marginali da 0,25, tasso sui depositi presso la BCE per disincentivare la pratica delle banche di mettere i soldi nottetempo nella BCE e ritirarli la mattina. L'overnight resta negativo, meno 0,40%. È un tentativo, appunto, non per scongiurare, ma per rendere meno conveniente, cioè li puoi depositare, però hai un tasso negativo. La cosa più importante però era capire che cosa avrebbe detto Draghi sul quantitative easing, che riguarda molto l'Italia, cioè l'acquisto di 60 miliardi al mese di titoli di Stato, che genera anche liquidità, ma soprattutto tiene bassissimi i rendimenti e lo spread. E Draghi ha confermato che il QE resterà fino a fine del 2017 e anche oltre. Se necessario, decideremo la calibrazione delle misure in autunno, per quindi la Banca Centrale Europea. Calibrazione vuol dire quando iniziare il tapering, quando iniziare una riduzione dell'acquisto di titoli di Stato, con che modalità. In questi casi è fondamentale la comunicazione al mercato oltre che la decisione stessa, cioè non dare il tempo al mercato di spostarsi. Ha rialzato ancora le stime sull'economia dell'area euro dall'1,9 al 2,2%, e quindi questo va in linea con quanto stiamo raccontando anche sull'Italia. E poi c'è il Draghi che invece attende, attende, la decisione delle elezioni tedesche, perché non sfugge a nessuno, anche se Draghi ha detto la Banca Centrale Europea non guarda singoli paesi o elezioni, però da più parti è circolata l'ipotesi che in realtà dopo le elezioni tedesche si arrivi a un accordo con la BCE in cui gli si lasci la possibilità di, cioè non vi sia ostacolo da parte della Bundesbank e da parte anche della Germania a tassi a zero e un rientro morbido dal quantitative easing. Però Draghi continua a dire che lui deve pensare non solo alla Germania, e ha ragione da vendere, ma deve pensare all'intera area euro. Questo vale anche sul fronte inflazione. Sono i tedeschi che delle volte confondono l'Europa con la Germania. Andiamo avanti, parleremo anche invece dell'uragano Harvey. Perché? Perché c'entra anche con la Federal Reserve. Allora, la Banca Centrale Americana ha qualche problema al suo interno, nel senso che ieri si è dimesso il vicepresidente Stanley Fischer. Molti hanno ricordato, in polemica con Trump, che, lo dico a tutti quelli che l'hanno votato, che qua non si vota per Trump, ma tutti quelli che hanno visto in Trump il grande difensore dei ceti esclusi da questa globalizzazione, dei ceti che nella ripresa economica americana sono stati marginalizzati, comunque l'America bianca, l'abbiamo detto mille volte. Attenzione che Trump continua ad avere una politica nei confronti di Wall Street molto più accomodante di quella già non particolarmente dura di Obama. Lo dico perché l'anno prossimo, quest'anno, si celebravano tra virgolette i 10 anni delle prime avvisaglie della crisi. 2007, agosto 2007, Bear Stearns, prima volta che parlammo dei mutui subprime in questa radio. L'anno prossimo si, diciamo, ricorderà il decennale ancora più forte, cioè con Lehman Brothers, che fallisce a ottobre del 2008. Faccio notare che non solo Wall Street sono tornati a guadagnare come prima, e il rischio boda lo vedono molti osservatori, ma che le già morbide rispetto alla legge precedente, il Glass-Steagall Act, paletti, i già morbidi paletti messi da Obama, Trump li vuole completamente levare. E proprio l'ammorbidimento sulle regole per Wall Street, di cui Trump è un grande conoscitore, sarebbero stati alla base delle dimissioni di Stanley Fischer. Ne parleremo. Ma perché parleremo anche della Federal Reserve? Perché sembra che l'impatto dell'uragano, il nuovo uragano, non Harvey, ma Irma, già Harvey è costato per ora 8 miliardi di dollari, sono gli aiuti iniziali stanziati ieri dalla Camera americana, praticamente 7,4 miliardi per l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze e 450 milioni per la Small Business Administration. E adesso passerà al Senato. Arriverà un altro uragano, Irma, che potrebbe essere anche superiore come effetto economico a Harvey, però insomma la Fed potrebbe decidere di rimandare al 2018, a questo punto la terza stretta monetaria dell'anno, perché dice se c'è una battuta d'arresto dell'economia aspetto ancora un po' ad alzare i tassi di interesse. E poi ne parleremo anche perché se vogliamo vedere questa vicenda degli uragani anche così in maniera un pochino più di colore, sta schizzando il prezzo del succo d'arancia surgelato, e questo qualcuno farà in mente qualcosa, ma non voglio svelare che cosa a chi non ce l'ha in mente. Dicevo quindi anche la Federal Reserve, e poi una cosa su cui torneremo, su cui molto ha insistito il Sole 24 Ore: il nanismo fiscale dei giganti del web. Lo dico senza polemica, ma porca miseria, è mai possibile che questi alfieri del mondo nuovo, benissimo, stanno rivoluzionando la società oltre che l'economia, mi riferisco a Amazon, Google, Facebook, Twitter, Airbnb, abbiamo sempre, diciamo, raccontato senza pregiudizi anche i vantaggi che possono portare, come stanno stravolgendo i canali distributivi, i canali di accesso, i canali informativi. Noi come altri ne siamo tra virgolette vittime, perché hanno sconvolto anche il mondo dell'informazione. Tutto bene, nessuno si schiera contro il nuovo, nessuno ha atteggiamenti luddisti per distruggere le macchine e i robot, ma io mi chiedo, e lo chiedo anche alle centinaia di migliaia di artigiani, commercianti, liberi professionisti, dipendenti che sono in ascolto, com'è possibile che abbiano pagato nel nostro paese, tutti messi assieme, Amazon, Google, Facebook, Twitter, Airbnb, nel 2016 poco meno di 12 milioni di euro. Dici, beh, non è poco. Eh no, è poco, perché il giro d'affari ammonta a qualche miliardo di euro. Allora, siccome siamo un paese in cui la lotta all'evasione si deve fare, giustamente, si è fatta anche in maniera un po' troppo tignosa su alcune categorie, vedi i vecchi studi di settore e quant'altro, e lo schema è sempre lo stesso: incassi in Italia, come Airbnb, come Twitter, come Facebook, come Amazon, come Google, però, fatturi in Lussemburgo. Sarà per quello che Juncker ci sente poco da questo orecchio, non lo so, ex premier lussemburghese, o in Irlanda o in Olanda. Dijsselbloem, che è sempre così severo sull'Italia, ha niente da dire sul fatto che l'Olanda sia un paese che fa concorrenza fiscale intesa come di tasse totale, no? Comunque, allora, in Italia Facebook, faccio un esempio, incassa solo di pubblicità 225 milioni di euro. Bravi, complimenti, bravissimi. Quanto paga di tasse? 260 mila euro. Non c'è nulla da aggiungere. Amazon ha pagato 3 milioni di euro, Twitter 170 mila euro, Airbnb Italy 60 mila euro, TripAdvisor 20 mila euro. Cioè, non sto scherzando, ma chi vi parla paga più tasse di TripAdvisor. E anche molti degli assistenti, forse assistenti magari 20 mila euro, no. Però dico, qualunque giornalista qua dentro, ma stiamo scherzando? E la Procura di Milano ha convinto Apple e Google a versare 624 milioni per sanare la posizione. Devo dire che Angela Merkel, Macron e anche Gentiloni e anche Rajoy vogliono portare un paper al Consiglio europeo. Non si capisce perché l'Europa invece, o meglio si capisce forse perché c'è anche Lussemburgo, l'Olanda e l'Irlanda, sia così cauta nel intervenire su quello che è un'elusione fiscale bella e buona. Adesso arriveranno le telefonate dei vari uffici stampa, perfetto, ma noi non abbiamo rispetto, abbiamo rispetto per tutti e per nessuno. In questo caso l'appello, il confronto non è non ce l'abbiamo con le multinazionali, il confronto è con quanto è la pressione fiscale per un imprenditore, un artigiano e anche un dipendente in questo paese, punto e basta. Poi è inutile fare i fighetti che tu rappresenti il nuovo quando sei, da questo punto di vista, più vecchio del vecchio. Allora, il numero come sempre per SMS e WhatsApp è 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e anche la diretta video su Facebook, quindi nessun problema. Qualcuno mi scrive, Barisone si guardi da chi le sceglie i commenti musicali, è una persona che non le vuole bene, mi guarderò da me stesso e andrò in difficoltà, andrò in psicanalisi, dice, col mio alter ego inizierò a guardarmi allo specchio, insultarmi. Andiamo avanti con le altre notizie. No, citeremo anche, racconteremo anche l'inchiesta che c'è oggi su Sole 24 Ore su acqua e sprechi in Italia, perché Claudio Gatti ha fatto un'inchiesta dove emerge che l'emergenza idrica non è solo il clima, per carità, sul riscaldamento globale. L'emergenza idrica non si chiama caldo record, ma si chiama atteggiamento anche della politica locale negli investimenti sulla rete. Dal 1954 al 1968 sapete quanto abbiamo investito sulla rete idrica del paese, che pure ha grosse sofferenze soprattutto nel sud? Lo 0,24% del PIL, ma dal 69 in poi abbiamo fatto anche peggio, lo 0,1%. Soltanto sul 14% della rete vengono così dotati sistemi tecnologicamente avanzati, e poi c'è anche il ruolo, diciamo, degli enti locali, che sembrano più sensibili anche negli acquedotti alla gestione del potere locale che al flusso idrico. È più il flusso elettorale che il flusso idrico delle volte. La borsa, meno 0,36% Milano, più 0,30% invece Parigi, più 0,54% Francoforte, più 0,70% Londra, Dow Jones invariato, euro su dollaro, l'euro si è rafforzato dopo le parole di Draghi, a 1,20 e 22. Tra i titoli, STMicroelectronics più 2,20, Luxottica più 2, Yux Santa Porte più 1,70, Mediaset più 1,5, Ferragamo più 1,26, Buzzi Unicem più 1,20, Moncler più 1 come Terna. Il fronte opposto è rappresentato da Ferrari, meno 6,65%, Exor meno 3,30, UbiBanca meno 2,5, Banco BPM meno 2, Unicredit meno 2, Fiat Chrysler meno 1,30, qui ci sono anche i dati americani, Leonardo meno 1,20, Mediobanca meno 1,1, B per meno 1%. Allora, mi scrive un tassista, ecco, lei ha difeso Uber, adesso ti... No, guardi che io non ho difeso Uber, io sono per la concorrenza, non abbiamo mai difeso Uber e non ho mai criticato l'esistenza di Airbnb. Certo che devono essere regolamentati come Uber con le leggi del paese, non esistono giungle o riserve indiane, ma detto questo il problema è che vadano, che operino quanto vogliono. È inaccettabile che visto che fanno la morale anche sui futuri, il destino del mondo, su dove andremo, questa globalizzazione, quando c'è, diciamo, da pagare le tasse ti comporti come quello che portava le valigie in Svizzera negli anni 60, mancano solo gli spalloni. Cioè, questo è il problema, che tu non puoi continuare a dire che fatturi in... Cioè, i ricavi li fai in Italia, però poi le tasse le paghi in Lussemburgo, perché... Ma infatti la mia posizione, non è la mia posizione, diciamo, Spagna, Italia, Francia, Germania hanno lo stesso problema. Il problema è perché l'Europa non prende un provvedimento. Ancora Miami si prepari al peggio, emergenza benzina, in arrivo alluvioni, venti letali, ne parleremo molto. Tra l'altro sono anche schizzati le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Pesa Harvey, sono salite a 298.000 unità. Per quello che riguarda invece la Banca Centrale Europea, adesso ne parleremo. Vorrei ha deluso anche la produzione industriale in Germania invece oggi, dopo il dato sugli ordinativi, ferma mese su mese. Invece i dati diffusi dall'Istat anche ieri portano il presidente Confindustria Vincenzo Boccia a dire oggi che l'economia italiana potrebbe crescere anche oltre l'1,5%, lo ha ricordato al microfono della nostra Teresa Trillon. Secondo me potrebbe essere, hanno ragione, perché molte imprese stanno intercettando anche questioni esogene legate, diciamo, alla domanda di altri paesi che aumenta. Noi siamo un paese esportatore per definizione, il fatto che ad oggi abbiamo un incremento dell'export di circa il 7% rispetto all'anno scorso è un elemento positivo per il nostro paese. In quote a grandi linee stiamo parlando, se manteniamo questo ritmo, di 28 miliardi più o meno di export in più nel paese, e questo è un elemento essenziale. Noi dobbiamo aumentare questo export, metterci a livello della Germania, e passo dopo passo possiamo farlo. Ma questa crescita si rifletterà anche sul lavoro? Sì, oppure... sì, questa crescita si rifletterà sul lavoro, perché è evidente che la prima fase è quella di riattivazione degli impianti, poi investimenti e poi occupazione. È il classico circolo virtuoso dell'economia. E poi, sempre in tema di economia italiana, oggi il rapporto COP 2017, la ripresa c'è, dice la Lega delle Cooperative, ma le cicatrici della crisi restano. C'è più qualità nel carrello della spesa degli italiani, è finita la caccia agli sconti. L'economia italiana prova a rialzare la testa, spinta dall'export, seppur ancora gravata dai molti divari sociali. E allora, ha seguito come ogni anno, devo dire, il rapporto COP 2017, che mette anche in evidenza il divario economico che persiste tra nord e sud e che è aumentato in questi anni di crisi, così come è aumentato quello generazionale. Dicevo, ha seguito la presentazione la nostra Maria Luisa Pezzali, e ascoltiamo al suo microfono intanto il direttore dell'ufficio studi della COP, Albino Russo. Gli italiani hanno subito una profonda metamorfosi e sono oggi molto diversi, quasi degli sconosciuti rispetto al passato, e naturalmente cambiano i consumi. Innanzitutto la buona notizia, i consumi crescono e stanno stabilmente sopra l'1% quest'anno, e dovrebbero esserlo anche l'anno prossimo, anche se il potere d'acquisto degli italiani è in calo. Quindi gli italiani tengono la testa sulle spalle, approfittano della politica Draghi sui bassi tassi di interesse e investono soprattutto nel cambio dell'auto e nella casa per i figli. Nel nuovo modello di consumo degli italiani, che abbiamo studiato rispetto all'ultimo decennio, cresce il valore del cibo. Lo vediamo bene nel carrello di consumo degli altospendenti, delle elite, dove il cibo ritorna a guadagnare una posizione centrale. Quindi un consumo meno ostentato, meno abbigliamento, meno gioielli, meno seconde case, meno motoscafi, per chi se li può permettere, e un consumo invece più esperienziale, più rivolto al benessere, alla cura di sé. Questo è, diciamo, il nuovo modello di consumo degli italiani, e anche quello che poi troviamo nell'andamento dei diversi settori. Il cibo, ad esempio, per la prima volta dopo 10 anni vede crescere il valore del carrello della spesa degli italiani. Vedremo, vedo alcuni che contestano i dati. È il rapporto COP che esce ogni anno, è il centro studi COP. Ieri abbiamo avuto il capo del centro studi della Confcommercio a lungo, vanno a spiegarci che cosa non sta andando ancora sul fronte dei consumi. E allora chiudiamo sui consumi prima di partire dopo il metro, pubblicità con la Banca Centrale Europea. Parliamo di vino, della vendemmia. Perché? Perché da un lato la siccità ha tagliato sostanzialmente una bottiglia su quattro, una vendemmia molto complessa, dicono gli esperti, un quarto della produzione non c'è per conseguenza della siccità e dei cambiamenti climatici. Di fronte alla domanda mondiale di vino in crescita, vediamo come manterremo anche la penetrazione nel nostro mercato. Oggi è uscito il dato dall'Osservatorio del Vino, promosso da Unione Italiana Vini e Ismea. I cali maggiori si sono registrati in Valle d'Aosta, meno 32%, e il centro-sud, ecco, ma anche Toscana, meno 32% nella produzione, Umbria, meno 35%, Lazio, meno 32%, Abruzzo, meno 30%, Puglia, meno 30%, Basilicata, meno 32%. Sicilia meno 35, come la Sardegna, cioè scomparsa una bottiglia su tre, mi dicono, però non le ho chiaramente ancora assaggiate, che la qualità dell'annata sarà ottima, quindi chi fa il collezionista vada a accaparrarsi le bottiglie, che saranno poche, vedremo cosa succederà anche sui prezzi. Comunque sentiamo Fabio Del Bravo dell'Ismea, ospite questa mattina a Effetto Giorno con Simone Spezia. La vendemmia di quest'anno è una di quelle che rimarrà negli annali, diciamo, perché c'è stato un po' di tutto in termini negativi, mancavano solo le cavallette, e poi inverno caldo, asciutto, gelate primaverili, estate caldissima, e quindi la stima che abbiamo fatto insieme noi dell'ISME, insieme all'Unione Italiana Vini, è quella di un meno 26% abbondante rispetto alla produzione dell'anno scorso. Quindi siamo intorno alla produzione italiana, dovrebbe girarsi quest'anno intorno ai 40 milioni di ettolitri. Ovviamente con una discreta variabilità tra regione e regione, no? Assolutamente una discreta, non solo tra regione e regione, ma come sempre accade nelle situazioni più difficili, addirittura tra vigneti contigui, insomma. Quindi questi sono dati generali molto, molto medi, e che ovviamente, ripeto, c'è con una grossa variabilità anche tra aziende contigue, tra zone contigue, ecco. Di solito si dice che quando la quantità è inferiore, soprattutto in annate particolarmente calde, la qualità può essere superiore. È questo il caso o quello che lei ci ha descritto come una sorta di impazzimento del tempo ha fatto sì che nemmeno questa eventualità si verificasse? Allora, guardi, il discorso qualitativo è, se vogliamo, ancora più variabile rispetto al discorso quantitativo. Mediamente quello che si dice, sicuramente non sarà un'annata indimenticabile anche dal punto di vista qualitativo, insomma, questo è sicuro. Allora mi stanno scrivendo enologi, produttori di vino, tutti, devo dire, annata pessima. Ho perso il 90% della produzione, lo so, purtroppo tra l'altro è uno dei settori in cui stiamo crescendo di più, quello vitivinicolo. Speriamo che almeno sulla qualità, anche se appunto anche sulla qualità qualche dubbio c'è, le cose possono andare meglio. Qualcuno mi scrive, beh, berremo birra o acqua, che problema c'è? No, guardi, il problema, si figuri, birra, acqua, il problema è che noi, la voce vitivinicola è la prima voce del nostro export alimentare, secondo me. E purtroppo qui si parla di economia, non di gusti alimentari, e mi dispiacerebbe un po' se altri paesi, perché non riusciamo ad avere i volumi sufficienti, dovessero occupare la nostra fetta di produzione. Penso all'Australia, ma penso anche al Cile. La Francia non ho ben visto se ha avuto problemi, li ha avuti, perché la siccità ha colpito tutta la parte Spagna, Francia, Italia, però insomma i paesi del New World, e lì la concorrenza ce l'hai. E onestamente sulle condizioni meteo della stagione vitivinicola del Cile e dell'Argentina mi trovate impreparato. Tanto la borsa ha chiuso, e ha chiuso con un, per quello che riguarda Milano, meno 0,34%, euro a quota 1,20, adesso un po', stare un po' ritracciando, 1,20 e 0,2, ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità, perché la borsa oggi si è mossa, al di là di alcuni casi singoli, esclusivamente sulla Banca Centrale Europea. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inats.it. Focus Economia. Based on our regular economic and monetary analysis, sulla base delle nostre periodiche analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Continuiamo ad attenderci che rimangano a livello attuale o più basso per un periodo prolungato e anche ben oltre l'orizzonte temporale del programma di acquisti. Riguardo le misure straordinarie di politica monetaria, confermiamo che gli acquisti continueranno all'attuale ritmo mensile di 60 miliardi fino a fine dicembre 2017, o anche oltre, se necessario. E in ogni caso, finché non vedremo un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi, coerente con il nostro obiettivo di inflazione, un significativo grado di politica accomodante è ancora necessario per favorire un aumento dell'inflazione e darle un sostegno nel medio termine. Se le prospettive diverranno meno favorevoli o se le condizioni finanziarie risulteranno non in linea con ulteriori progressi verso un aggiustamento durevole dell'inflazione, siamo pronti a incrementare il programma di acquisti in termini di entità e o durata. Quest'autunno decideremo sulla calibrazione dei nostri strumenti oltre la fine dell'anno, tenendo conto del percorso previsto dell'inflazione e delle condizioni finanziarie necessarie per un ritorno dei tassi di inflazione verso livelli inferiori, ma prossimi al 2%. L'altro tema che abbiamo affrontato è stato la calibrazione dei nostri strumenti di politica monetaria a cominciare dal prossimo anno. Sono stati discussi vari scenari e la discussione è stata davvero, davvero a livello preliminare. Aveva lo scopo di porre domande sui diversi scenari e come si sarebbero sviluppati. La discussione ha riguardato la lunghezza e la dimensione dei flussi mensili di acquisti di titoli, dei pro e dei contro, ma, ripeto, si è trattato di una discussione molto preliminare. Annunceremo quando saremo pronti e la parte preponderante delle decisioni sarà presa a ottobre. Il Consiglio direttivo è riluttante a impegnarsi su una data precisa. A ottobre dovremmo essere pronti, ma se non lo fossimo, posticiperemo. Questi, a mio avviso, due passaggi principali dell'intervento di Mario Draghi in conferenza stampa e quindi i tassi invariati, ma l'ultimo che avete sentito, noi decideremo probabilmente a ottobre, ma la Banca Centrale Europea è restia ad impegnarsi su una data certa. Alessandro Merli, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte, buonasera. Sì, buonasera a voi. Alessandro, da questo punto di vista abbiamo letto in questi giorni anche delle pressioni di nuovo tedesche, Schäuble, ma anche l'amministratore delegato di Deutsche Bank, John Cryan, che ha detto insomma bisogna tornare, bisogna chiuderla con l'era dei soldi facili, anche se l'euro è forte, perché c'è il rischio bolle in molti settori della finanza. In realtà è la Germania quella ad avere maggiori problemi, perché tassi di rendimento negativi sui depositi, sui depositi bancari. Tu che impressione hai avuto? Il Draghi che resiste e dice no, non ve la dico la data e decido io come gestire l'eventuale e quando riduzione del QI? Ma non credo che queste dichiarazioni di ieri di Schäuble e dei banchieri tedeschi abbiano aggiunto qualcosa di nuovo alla discussione. Sono mesi che sentiamo queste storie. E in realtà la data Draghi l'ha detta, adesso decideremo in ottobre. Poi però, come sempre, vuole evitare di legarsi le mani. Cosa sappiamo che cosa succederà da oggi al 26 ottobre? Per quello che ne sappiamo, con l'aria che tira potrebbe esserci una guerra nucleare, ma... E quindi si è lasciato semplicemente questa valvola di sfogo di dire certo, se si materializzano dei rischi che al momento sono imprevedibili, potremmo anche procedere diversamente, ma insomma la data è quella di ottobre. Ha detto saremo pronti. Ecco, però mi chiedono gli ascoltatori, Alessandro, ma insomma alla fine per noi italiani, perché qua trasmettiamo, il messaggio di Draghi è qualcosa che un po' ci conforta, nel senso che dice attenzione, non mi faccio, oppure l'aver detto beh probabilmente decideremo a ottobre è l'inizio, seppur morbidissimo, ancora il preambolo però di un percorso che non, diciamo che non ci avvantaggia necessariamente. Beh, sicuramente è l'inizio di un percorso. Si dice che a ottobre annunceranno delle decisioni, le decisioni poi entreranno in vigore più o meno. La BCE ha ribadito oggi che andrà avanti fino a dicembre col programma già stabilito, cioè quello di acquistare titoli per 60 miliardi di euro al mese. Quindi da gennaio in poi sostanzialmente sappiamo che la BCE, a meno che lo scenario non si modifichi, ma questo al momento è imprevedibile, che da gennaio la BCE comincerà a ridurre questi acquisti. Del resto la BCE ha fatto, da quando ha lanciato il QE, acquisti per 2.300 miliardi di euro. Cioè, prima o poi comunque doveva finire, insomma. E prima o poi doveva finire, oltretutto non è che finisca, che passi da 60 a 0, certo. Il primo gennaio passerà, non sappiamo ancora quali saranno le modalità, né i tempi né gli importi, però continuerà ad acquistare. Non solo, Draghi l'ha ricordato, da tempo la BCE è impegnata a reinvestire i titoli già acquistati che verranno a scadenza in questo periodo. Gli importi che entrano nelle casse della BCE verranno reinvestiti, quindi la BCE farà, oltre agli acquisti che annuncerà ad ottobre a partire da gennaio, farà anche il reinvestimento dei titoli che vengono a scadenza. E Draghi ha ricordato oggi, certo, che questi ammontari cresceranno, perché poi il programma si è allargato, diciamo, nel corso dei mesi, quindi ce ne saranno di più di questi titoli che vengono a scadenza e quindi di questi importi che verranno investiti. Quindi non è che improvvisamente la BCE sparisce dal mercato. Credo che dal nostro punto di vista, certo, bel po' di tempo e di margini sono stati creati anche in termini di calo, diciamo, dei tassi di interesse per i grandi debitori, più importante dei quali è lo Stato italiano. Sono stati fatti dei risparmi non indifferenti. No, ma cioè, figurati, non è che come sono stati utilizzati questi soldi, certo. È un altro discorso, sicuramente non dipende da Draghi. Allora, non dipende da Draghi, certamente ci sarà un rimbalzo, cioè i tassi di interesse un po' si muoveranno, però ricordiamoci cos'erano prima di questa fase, per cui sicuramente le condizioni finanziarie restano, anche questo Draghi l'ha detto. Sì, io devo dire che vabbè, adesso restano molto favorevoli. Devo dire che l'ingratitudine ha anche passaporto tedesco, perché qua stanno tutti a ragionare perché hanno i tassi un po' negativi sui depositi. Se non fosse intervenuto Mario Draghi, la gestione tedesca della crisi greca, poi portoghese, poi spagnola, poi italiana, avrebbe portato probabilmente alla fine a un tale crack finanziario che nulla avrebbe più retto. Comunque, tanto la gratitudine non ha cittadinanza nemmeno lì. Ultimo audio di Draghi, quello sull'euro. Io non ho capito quale sia il problema dell'euro a 1,20 quando abbiamo avuto 1,40, certo un po' più alto che a 1,09 o 1,1, ma non mi sembra, non vorrei che fosse quasi pretestuosa la massa di critiche che è arrivata a questo. Draghi sull'euro. The recent volatility in the exchange rate. La recente volatilità del tasso di cambio rappresenta una fonte di incertezza che richiede il monitoraggio per quanto riguarda le sue possibili implicazioni per le prospettive di medio termine per la stabilità dei prezzi. Chiaramente ci aspettiamo conseguenze derivanti dall'apprezzamento del tasso di cambio. Non sarete sorpresi nel sentirmi dire che il tasso di cambio non è un obiettivo della nostra politica, ma è molto importante per la crescita e per l'inflazione. Così importante che le prospettive di inflazione di medio termine sono state riviste al ribasso, il che significa che dovremo tenere conto di questi elementi nell'insieme delle informazioni con cui prenderemo le nostre future decisioni di politica monetaria. Nell'ultima riunione erano state espresse preoccupazioni da diversi componenti del Consiglio e oggi queste preoccupazioni sono state manifestate nuovamente dalla maggioranza dei membri presenti alla riunione. A Allora, Alessandro Melli, poi ci spostiamo a New York per quello che riguarda la Federal Reserve. Che cos'è che preoccupa di sto euro? È usato come scusa delle volte? Ma diciamo che l'euro evidentemente ha un impatto su diversi operatori economici in modo diverso a seconda di quanto siano pronti a fronteggiare il cambio. Diciamo che una impresa più competitiva risente meno del movimento dell'euro. Certi settori che sono meno sensibili sui prezzi, diciamo per esempio i beni di lusso, a loro volta sono meno, hanno un impatto minore dal rialzo dell'euro e altri di più. Detto questo, un evento è probabilmente ancora un livello al quale la maggioranza delle nostre imprese, o comunque prese nell'aggregato, restano in grado di competere perfettamente sui mercati internazionali. C'è semmai da fare un'altra considerazione, che non è sul livello ma sulla rapidità con cui si è verificato questo movimento, che in effetti è stato abbastanza brusco, se vogliamo. Sì. L'euro era 1,5 sul dollaro, adesso sta a 1,20. Forse questo intervento verbale che ha fatto oggi Draghi avrebbe potuto essere fatto un po' prima, ecco, nel senso che invece di lasciar correre fino a questo punto, forse se fosse stato fatto qualche settimana fa, magari avrebbe dato un segnale ai mercati che era il momento di fermarsi un po' al di sotto dei livelli attuali. Allora, a chi mi dice se fosse per lei Draghi avrebbe il Nobel per la pace, per l'economia, per aver salvato il mondo? No, guardi, le confermo che se fosse per me, e non ho premi a dirlo, Draghi avrebbe il premio di unico politico di statura, e infatti non è un politico, in questi anni, non dal 2008, dal 2010, da quando noi ci siamo beccati nell'area euro, la seconda crisi, l'unico che abbia avuto un po' di lungimiranza, mentre tutti pensavano ai casi loro e alle piccole, diciamo, ai piccoli tatticismi, l'unico che ha avuto la capacità di andare anche contro le pressioni tedesche, contro i continui attacchi da parte di Weidmann e di Schäuble, spalleggiati dalla CDU, cioè l'unico che ha detto qua se vogliamo tenere assieme l'euro e l'Europa questa è la strada, per cui sì, le confermo totale appoggio, se per quello che gliene può fregare a Draghi, nella sua azione di politica monetaria e quindi di Presidente della Banca Centrale Europea. Grazie Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Dopo il traffico parliamo dell'uragano Irma, dopo quello che è successo con Harvey, sono schizzate tra le altre cose alle stelle le quotazioni di succo d'arancia congelato, e svederemo anche, per chi non l'avesse già indovinato, qual era il riferimento più classico per chi ha una certa età. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova, vi presenta Focus Economia. Signore e signori, le stime del raccolto delle arance per il prossimo anno. Dopo aver esaminato le stime giunteci dai vari stati produttori di arance, abbiamo tratto la seguente conclusione. L'inverno rigido non sembra aver compromesso il raccolto delle arance. Wilson, per carità di Dio, venda! Vendo! Diavolo sta andando! Brutto idiota! Torni immediatamente là in mezzo e continui a vendere! Ma io non credo di poter... Ok. Sì, 200. 100? Grazie, bene. Ehi, amico, 5 per me. 5, 5, okay, 5, 5, 5, okay. 5. Buon anno, signori! Soy el fuego que... Eh sì, una poltrona per due, dai. Vedo che molti hanno o una certa età o hanno rivisto molte volte il film Mario Platero. Non era protagonista, era protagonista in Wall Street 2, Il denaro non dorme mai, pochi se ne sono accorti, ma io sì. Però avrà visto il film Una poltrona per due. Buonasera Mario. Buonasera Sebastiano, eccoci. Ho svelato anche il tuo cameo. So che hai degli impegni, ma ti chiedo ancora qualche minuto di pazienza, che abbiamo il GR24. In realtà a noi interessa adesso, al di là di averla messa un pochino sulla parte cinematografica, perché è schizzato il prezzo del succo d'arancia surgelato per via del nuovo uragano Irma, vorrei capire come Harvey e Irma, non è un gioco di parole, rischiano di influenzare la decisione della Federal Reserve. Federal Reserve che ieri ha perso il suo numero 2 in polemica forse con Trump. Lascio la risposta e quindi l'attesa sulla risposta a tutti voi a dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Afectuoso para nuestro amigo Pino Enseño y todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24. Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Enseño und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss! Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Enseño y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto. Da domenica 10 settembre, dalle 14 alle 16, riparte Voice Anatomy, ovviamente su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Focus Economia. Soy el fuego que... minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Mario Platero in collegamento con noi da New York. Perché l'uragano Harvey e quello che sta arrivando Irma potrebbero cambiare i piani della Federal Reserve e quindi di Janet Yellen? E che aggiungo una seconda domanda così mi dà una risposta complessiva: è come leggere le dimissioni ieri del vicepresidente? Alcuni hanno voluto vedere una polemica con Trump che starebbe rendendo ancora più morbide le regole, per non levare del tutto su Wall Street. Allora, primo, l'uragano. Beh, devo dire, Harvey, abbiamo già dei risultati di quello che è successo in Texas: 65.000 persone sembra che abbiano già perso il posto di lavoro. Questa è una prima. I danni sono stimati fra i 130 e i 180 miliardi di dollari. Insomma, il lavoro si è bloccato. Il Texas è un motore dell'economia americana. L'economia texana cresce, doveva crescere quest'anno a ritmi del 3,4-3,5% contro una media che, come sai, è molto inferiore, appena vicino al 2%. Mediamente dal 2005 a oggi, pensa, è cresciuto al 3%. È lo stato forse che cresce di più anche grazie al petrolio. Dunque, se uno stato chiave si indebolisce e rallenta, beh, le ripercussioni ci sono un po' dappertutto nel paese. Aggiungiamo, come si diceva prima, che sta arrivando Irma. Irma è l'uragano in questo momento più potente nella storia degli uragani. Categoria 5, ma una categoria 5 turbo rafforzata, 300 km all'ora di venti, ha già fatto grandi danni nei Caraibi, certo lì sono casupole. Abbiamo visto delle case senza tetto, abbiamo visto che ci sono stati una dozzina di morti, ma adesso sta per colpire la Florida. Il processo di evacuazione è in corso, dal punto di vista dell'organizzazione tutto sta funzionando bene. Anche in Texas abbiamo avuto in fondo alla fine 60 morti, solo 60 morti dico, pensa che Katrina ce ne furono 1800. Ecco, quindi c'è una situazione, come dire, di tensione. Tu hai parlato dell'arancia, del succo d'arancio congelato, delle arance congelate, sì, ma c'è molto altro, cioè la Florida è un punto di riferimento con tutto il Sud America, Miami è una città chiave, ormai una grande capitale americana, e dunque tu capisci che se arriva Irma e la Florida si paralizza, se ci sono danni, non sappiamo naturalmente come andrà a finire, però sappiamo che sarà molto forte. Questa combinazione di Harvey e Irma potrebbe avere un impatto sull'economia americana. Staremo a vedere. La Yellen ha detto che comunque entro la fine dell'anno farà un altro aumento dei tassi, però come sempre tiene la porta aperta, nel senso che se poi interverranno dei fattori preoccupanti, per esempio sul mercato del lavoro che è un po' stretto e su questo e su quell'altro, potrebbe magari posticipare questa stretta. Mi chiedevi di Fisher. Stanley Fisher è un grande personaggio dell'economia mondiale, come sai, è stato governatore anche della Banca di Israele, ha lavorato al Fondo Monetario, grande professore universitario, e poi adesso era il numero due alla Federal Reserve. Fisher è molto vicino per esempio a Volcker, quindi certo lui vuole che ci sia un controllo sul sistema bancario, perché ha visto che cosa quanti danni ha provocato un lassismo estremo. Forse è stata la sua più una scusa che altro. Fischer è un uomo ormai anziano, oltre 70 anni, e probabilmente, come ha fatto in passato, vuole dedicarsi più al settore privato, trovare un lavoro con una grande banca dove potrà di nuovo cash in dalla sua esperienza e magari essere un po' più rilassato. Lo meritano tutti. Allora, grazie anche a Mario Platero. Restiamo sul tema dei mercati finanziari, perché chiaramente Banca Centrale Europea, anche in parte Federal Reserve, sono stati gli spunti di carattere macro su cui sono mossi oggi i mercati, con invece poi, per quello che riguarda l'Italia, qualche caso individuale, 349, qualche caso singolo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Più 0,30% Milano e anche Parigi, più 0,70% Francoforte, Londra più 0,60%, Dow Jones meno 0,16%. Per cento, euro quoto 1,20. Il fronte dei rialzi vede Steamacroelectronics più 2,5, Hughes Santa Porte più 1,70, Luxottica più 1,60, Mediaset più 1,5, Ferragamo più 1,1, Buzzi Unicem più 1%, Moncler più 1. Ferrari invece, e questo è il caso al di là del ragionamento complessivo, meno 6,91%, male anche Xor, la controllante del gruppo Fiat e anche di Ferrari, meno 3,55%, Fiat Chrysler meno 1,10%. Poi le banche deboli oggi: Banco BPM meno 2,60% come UbiBank, UniCredit meno 2,20%, Mediobanca meno 1,30%. Eleonora Micheli, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Ferrari innanzitutto. Ma Ferrari a scatenare le vendite quest'oggi è stato un report negativo di Morgan Stanley, che ha detto che la casa del cavallino rampante ha sicuramente bisogno di un pit stop. Nell'ultimo anno infatti i titoli hanno raddoppiato il proprio valore a Wall Street e anche a Piazza Affari hanno registrato un progresso attorno al 70%. Questo in vista del fatto che negli anni venturi la società dovrebbe raddoppiare, si è detto almeno nei mesi passati, o lo hanno sostenuto altre case d'affari, dovrebbe raddoppiare il volume delle auto vendute e mantenere al tempo stesso l'esclusività e quindi prezzi elevati. D'altra parte la stessa Morgan Stanley ha commentato che questo è tutto da vedere, soprattutto in un mercato competitivo in cui anche altre case auto cercheranno di raggiungere gli stessi risultati, e peraltro è da mettere in conto che probabilmente negli anni venturi Lamborghini, McLaren e Aston Martin potrebbero intraprendere la strada della borsa e quotarsi appunto sui mercati finanziari. Insomma, Morgan Stanley ha raccomandato prudenza e subito si sono scatenate le vendite, che peraltro hanno coinvolto anche FCA un po' per gli stessi motivi. Solamente nel mese di agosto, spinta dalla speculazione, FCA è salita molto, soprattutto a Piazza Affari, e quindi oggi le prese di beneficio l'hanno fatta scivolare dell'1,1%. Peggio di tutti in casa Agnelli ha fatto Exor, che ha perso il 3,5%. Ancora per quello che riguarda altri titoli, Leonardo perde l'1,20%, Generali lo 0,60%. Andiamo sui migliori e peggiori: Italian Independent più 14,5%, Edes più 8,60%, mentre il fronte opposto vede Neurosoft meno 10,30%, poi Ferrari appunto, Beghelli meno 6,60%. E anche Ecosantec meno 4,31%. Nel ringraziare l'onore Micheli, prima del traffico, ricordo il prossimo e ultimo tema, visto che molti mi stanno scrivendo. È tornata d'attualità una notizia, o meglio, un tema su cui il Sole 24 Ore anche ha molto scritto in questi giorni e settimane. L'ultimo articolo parlo di venerdì scorso. Il tema della cosiddetta web tax, che non è una tassa da aggiungere al web, era un'altra proposta questa, è semplicemente il fatto che, con massimo rispetto, ma i colossi del web come Amazon, Google, Facebook, Twitter, Airbnb, tutti messi assieme hanno pagato nel 2016 nel nostro paese poco meno di 12 milioni di euro a fronte di un giro d'affari quantificabile in qualche miliardo di euro. E siccome l'iniziativa non è solo italiana, ma c'è una lettera c'è l'ipotesi di avere, arrivare a un documento congiunto tra Francia, Italia, Germania e Spagna. La domanda sullo sfondo è perché l'Europa continui a nicchiare o perlomeno a non essere particolarmente, come si può dire, intraprendente sul tema non dell'armonizzazione fiscale, che è molto più ampio, ma anche se è accettabile che questi colossi del web fatturino in Francia, in Spagna, in Italia o in Germania e poi paghino le tasse in Lussemburgo, in Olanda o in Irlanda, dicendo che i ricavi sono fatti lì ma la fatturazione viene da un'altra parte. Dopo il traffico. Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta Focus Economia. Allora, lo schema è sempre lo stesso, dicevamo, si incassa in un paese, poi si spostano i ricavi sulle filiali dei paesi con i migliori trattamenti fiscali come Irlanda, Olanda e Lussemburgo. Nulla di nuovo, abbiamo già raccontato come lo studio è stato presentato al Senato della Repubblica. Facebook incassi con la pubblicità 225 milioni di euro, versi all'erario 260 mila euro. Amazon versa all'erario 3 milioni, Twitter 170 mila euro, Airbnb Italy 60 mila euro, TripAdvisor meno di un contribuente normale, 20 mila euro l'anno. Tra l'altro il gioco è talmente conveniente che nemmeno le multe scoraggiano molto, perché insomma la Procura di Milano ha convinto Google e Apple a versare 624 milioni di euro per sanare la loro posizione con il fisco italiano, e li hanno versati, a dimostrazione che il vantaggio era enorme. Se ne è occupato, dicevo, molto Sole 24 Ore Alessandro Galimberti, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, la domanda non è adesso perché lo facciano, evidentemente, anzi sicuramente, la cosa, l'elusione, diciamo, in qualche modo fiscale è consentita dalle norme, dalla mancata armonizzazione a livello europeo delle tasse. Uno può anche dire vabbè, armonizziamole verso l'Irlanda, perfetto, ma armonizziamole. Il problema, il punto è perché, cioè, prendere l'iniziativa Gentiloni, Merkel, Macron e Rajoy, c'è un silenzio abbastanza assordante da parte di Bruxelles. Infatti, se la domanda è perché non pagano le tasse nei paesi europei, nei grandi paesi europei, non solo, la risposta banalissima è perché nessuno glielo chiede. Finora gliel'hanno chiesto solo le autorità giudiziarie. In Italia tu menzionavi la Procura di Milano, che ha fatto patteggiare in sostanza un risarcimento, sì, sulle azioni di accertamento fatte di accertamento fiscale fatta dall'agenzia fiscale. In Francia sta succedendo lo stesso, cioè la settimana scorsa abbiamo dato una notizia, c'è un avviso di accertamento per 600 milioni a Microsoft, e l'anno scorso, pochi mesi fa, l'amministrazione francese aveva contestato 1 miliardo a Google. Ora il problema è che tutta questa attività viene delegata alle amministrazioni, viene delegata alle procure della Repubblica, ma non esistono, i governi non hanno ancora preso una posizione chiara su come far pagare le tasse a questi grandi colossi. Ora c'è il prossimo Consiglio europeo del 15 a Tallinn, abbiamo dato notizia pochi giorni fa, oggi è stata ripresa anche da altri quotidiani, che i quattro premier del Forti d'Europa, cioè Gentiloni, Macron, la Merkel e la Rajoy, cioè le prime quattro economie dell'Europa unita, hanno preso un'iniziativa di portare a quel tavolo un paper comune per cominciare a individuare una tipologia di tasse da far pagare. Sono due aspetti nei quali i profitti degli over the top sono enormi e completamente esenti. Uno è la pubblicità, perché fatturano, queste stesse società fatturano diversi milioni, anzi ormai siamo arrivati al miliardo di euro di pubblicità in Italia, e non pagano, sostenendo che in Italia non hanno un'organizzazione, quella che per il fisco è la stabile organizzazione, cioè non hanno uffici, non hanno personale, se non per attività che definite ancillari. Quindi dicono non paghiamo qua perché viene tutto fatturato in Irlanda, viene tutto fatturato in Olanda. Ma poi c'è un altro asset molto grosso di questi over the top, sul quale nessuno ha ancora idea di come pensare una tassazione, che sono la profilazione dei dati utenti, cioè la vendita di tutte le abitudini di consumo. consumo, certo, di navigazione, eccetera. Quello è il vero asset sul quale maturano miliardi e miliardi di dollari completamente esentasse. Il passo prima sarebbe tassare la pubblicità, come stanno facendo alcuni paesi. La Gran Bretagna era partita alcuni anni fa con la famosa flat tax del 25% per fatturati sopra i 10 milioni di sterline. L'Italia si è mossa quest'anno all'interno della legge di stabilità, il correttivo, con la web tax, che non è una web tax ma è semplicemente un invito a queste società over 50 milioni di euro di sedersi al tavolo delle trattative con l'agenzia fiscale. Non è un modo di definire il pagamento delle tasse, ma è un modo perlomeno di dire: siamo in Italia, siamo presenti stabilmente in Italia. È il presupposto per gli anni prossimi per far pagare le tasse. La necessità vera, come dicevi tu, però, è trovare una chiudere gli interstizi della legislazione internazionale dentro i quali si sono infilati questi over the top. Ecco, vorrei essere ancora più chiaro, visto che l'Europa su alcuni temi, penso agli aiuti di Stato, giustamente si attiva subito, quasi in automatico. Il problema qui è che alcuni paesi ne hanno un vantaggio, nel senso che Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia sono, ne hanno sicuramente uno svantaggio, però poi, siccome Olanda, Irlanda e Lussemburgo sono i paesi più scelti, non vorrei che vi fosse qualche pressione, oltre che, come mi scrive qualcuno, ma faranno pressione a Bruxelles. Ho capito, ma cioè, questo è anche naturale, cioè, se io fossi Google cercherei, in maniera legale ovviamente e trasparente, di fare pressioni perché questa cosa resti così, è ovvio, ma altra cosa sono le pressioni dei paesi membri, non le pressioni di soggetti economici che, come sempre avviene, cercano di orientare, di chiedere all'Europa di avere una sensibilità per loro. Ma guarda che l'atteggiamento fondamentale di queste grandissime aziende, di questi grandissimi monopoli, è quello di sedersi al tavolo delle trattative nel momento in cui vengono chiamati. Finora loro hanno beneficiato del fatto che nessuno gli ha chiesto il conto, ed è poi evidente che dentro l'Europa stessa ci sono delle politiche di dumping fiscale. Questo, quello che ha fatto l'Irlanda con Apple, che è finito anche sul tavolo dell'autority del commissario per la concorrenza con la multa da 13 miliardi, contro cui la stessa Irlanda ha fatto ricorso per difendere in sostanza il beneficio, il dumping fiscale. È evidente che esiste un problema anche all'interno dell'Europa, ed è in questo, certo, senso che va letto l'iniziativa delle quattro economie forti, dei quattro premier, per cominciare una cooperazione rafforzata tra loro e dire: d'accordo, allora fissiamo delle regole noi e poi ce le armonizziamo, perlomeno per non avere effetti di dumping e di concorrenza fiscale così spietata all'interno della stessa Unione Europea. Qualcuno suggerisce anche una tassa sulla profilazione, non so come si possa fare. Guardate, lo dico ad altri ascoltatori, che qua il problema non è aumentare le tasse, scusate. Il problema però è non avere l'artigiano, l'imprenditore, il commerciante, il libero professionista, e poi non parliamo dei dipendenti che hanno il prelievo alla fonte, con una tassazione alta in questo paese. Poi giustamente tutti puntiamo, e non vedremo l'ora, a una riduzione del cuneo fiscale in primo luogo e quant'altro. Però nel frattempo, cioè, tu non puoi avere una tassazione così su libere professioni, su attività del commercio, contatto di impresa, e poi avere praticamente il nulla, perché quando tu scopri che Facebook paga 260.000 euro o Airbnb 20.000, e TripAdvisor 20.000 euro di tasse in un anno, è meno di molti normali, banalissimi professionisti italiani. Quindi il tema della tassazione sulla profilazione non so se sia così facile. Sicuramente sarebbe più facile arrivare alla parte pubblicitaria. Guarda, solo la pubblicità, pensiamo a quanto si paga fare la pubblicità sui mezzi tradizionali, no? Tra old economy e new economy, quanto un giornale, quanto un'emittente televisiva fattura di pubblicità e quanto paga sui ricavi, sì, della pubblicità. Nel momento in cui questa pubblicità si smaterializza, per la verità già in TV è eterea, però nel momento in cui transita sul digitale non c'è più un euro, non paga più un euro, si abbatte del 34-37%, questa aliquota va a zero. Si tratta dello stesso contenuto economico che in un caso è tassato pesantemente e nell'altro completamente privo di imposizione fiscale. È una stortura dovuta, certo, nessuno dice che queste aziende evadono, eludono beneficiando di una serie di interstizi, di buche che ci sono nelle normative internazionali, ma come dicevamo prima, nelle stesse normative dell'Unione Europea. Quindi qua, prima di trovare ancora un'aliquota comune, una tassazione comune, un'IVA comune, che non c'è in Europa, dovremmo trovare una rete comune che non permetta a nessuno di pagare tasse zero. Chiaro che poi l'Irlanda, abbiamo parlato dell'Irlanda, ha beneficiato di questa, diciamo, di questi incentivi a zero, sì, per rilanciare l'occupazione, l'economia e quant'altro. Però Vabbè, quindi il tema resta tutto. Adesso vedremo se quando c'è una data su quando dovrebbero presentare questo paper comune i quattro paesi. Beh, ci sono due appuntamenti: il Consiglio d'Europa il 15 settembre e poi il 29 settembre l'Ecofin. E vedremo se arriverà poi questo documento. Grazie intanto anche ad Alessandro Galimberti. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un augurio di buona serata da Sebastiano Berisoni. Ci risentiamo domani. Torna la poco invidiabile classifica dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.